notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Meno di 12 ore alla fine della campagna elettorale, alla mezzanotte scatta il silenzio e qualcuno dice finalmente. Grillo, Berlusconi e Renzi tornano a scontrarsi, intanto in Olanda arretra il partito nazionalista ed euroscettico di Wilders. Dopo il colpo di Stato in Thailandia, l'esercito impedisce l'espatrio a 155 esponenti politici. Oscurate gran parte delle TV, nel paese vivono 10.000 italiani, si sconsigliano viaggi nel sud, ne parleremo tra poco con l'ambasciatore. Giorno del ricordo di Giovanni Falcone, a 22 anni dalla strage, la solita passerella per tante persone, dice il cognato del giudice ucciso nel 92. Napolitano, fermare i condizionamenti della mafia sugli affari. Tra poco ospite il procuratore nazionale antimafia. Meno 6,8% per i consumi alimentari in marzo, ma l'anno scorso c'era la Pasqua. Per una maggior crescita del PIL si spera nei nuovi metodi di calcolo che comprendono l'economia illegale. Ma quanto valgono? Lo chiederemo ad un economista. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, che apriamo naturalmente parlando della campagna elettorale. Si diceva siamo agli ultimi colpi, c'è chi dice appunto finalmente, mancano 11 ore alla chiusura, e però ci sono luoghi dove si è già votato, si parla della Gran Bretagna e dell'Olanda. In Gran Bretagna sembra forte l'affermazione, almeno alle amministrative del partito dell'UKIP, di Nigel Farage, ne abbiamo parlato ieri, mentre in Olanda già stanno circolando invece i risultati delle europee, ed è da questi che vogliamo partire e fare un punto con il collega del Sole 24 Ore, Michele Pignatelli. Michele, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Sì, quelli che stanno girando, come dicevi tu, sono gli exit poll. Sono exit poll, i primi sono stati diffusi ieri sera, subito dopo la chiusura delle urne, li ha effettuati Ipsos, e secondo queste prime rilevazioni sono state fatte su 40.000 persone in base al loro voto, il partito euroscettico, quello su cui diciamo erano puntati gli occhi, l'attenzione di tutti, il PVV di Geert Wilders, sarebbe addirittura quarto con il 12,2% dei consensi. Dico addirittura perché le attese erano che se la giocasse per i primi posti e perché alle ultime elezioni europee aveva ottenuto il 17% dei voti. Sono invece molto meglio posizionati, sempre secondo questi exit poll, partiti pro-Europa, in particolare i liberali progressisti del D66 e i cristiano-democratici, che hanno un po' più del 15% dei voti, secondo queste rilevazioni, Simone. Grazie Michele. Intanto questo è quello che sappiamo ad ora dall'Olanda. Veniamo all'Italia, questa chiusura di campagna elettorale. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora siamo proprio alle ultime battute di campagna elettorale. Berlusconi e Grillo hanno fallito, dice Matteo Renzi. Grillo ha mandato in Parlamento parlamentari che si sono rinchiusi sui tetti. Alle riforme proposte ha risposto con una pernacchia. Per il Premier invece Berlusconi ha fallito alla guida del Paese. E Renzi dice anche: mi hanno dato fastidio i toni aspri e gli insulti. Abbassiamo le tasse per portar su l'Italia. Per il leader di Forza Italia invece gli 80 euro dati da Renzi sono una mancia agli elettori fedeli, e Berlusconi lancia anche l'allarme su Grillo, il Movimento 5 Stelle mi inquieta, dice il Cavaliere, a rischio disordini se vince, Grillo è un aspirante dittatore. Per quanto riguarda invece il leader del Movimento 5 Stelle, chiuderà la campagna elettorale nella storica Piazza San Giovanni di Roma, ieri in Piazza Duomo a Milano Grillo si è detto sicuro della vittoria, ma senza bisogno di vendetta. E sul futuro governo dice: ci andremo con il 58% come fece Roosevelt. Hai capito Simone? Questo quindi sono i toni. Questi toni della campagna elettorale, almeno dai grandi. Nel frattempo il Presidente del Consiglio Renzi sta tenendo una conferenza stampa a Palazzo Chigi, dove vedo da qualche parte che già si addensano polemiche, perché c'è chi dice dal centrodestra appunto sta chiudendo la campagna elettorale proprio a Palazzo Chigi. Intanto ti ringrazio Elisabetta Fiorito, non mancheremo di sentirti naturalmente nei prossimi giorni, un quadro dagli altri partiti. Dalla Lega Fratelli d'Italia, dall'altra Europa con Tsipras a scelta europea, passando per Italia dei Valori e Nuovo Centrodestra, è l'esercito dei partiti minori che lancia gli ultimi appelli al voto a poche ore dalla chiusura di una campagna elettorale polarizzata di fatto dallo scontro Grillo-Renzi. Il vero voto utile è quello per la lista Tsipras, dice la presidente del gruppo misto SEL al Senato, Loredana De Petris, perché solo il fronte eco progressista potrà cambiare la UE. Cambiare è la parola d'ordine anche di scelta europea. Giancarlo Susta, capolista per il Nord-Ovest. Noi dobbiamo andare oltre questa Europa per completare il disegno dell'Europa, un'Europa più politica, un'Europa che risolva il problema della governance economica, dell'unione bancaria, dell'unione fiscale. Tutto questo è rimasto sullo sfondo. I grandi partiti ancora una volta hanno polarizzato la questione sulla base delle vicende nazionali. Di speranza di cambiamento parla Angelino Alfano, ma il messaggio per l'Europa dice di non farsi bastare la protesta. Se non ti basta e non sei di sinistra, c'è solo il nuovo centrodestra. Sul fronte opposto l'antieuropeismo della Lega, fermiamo l'euro, diverremo tutti barboni. È per questo che il segretario Matteo Salvini sceglie di tenere il comizio finale davanti al dormitorio pubblico di Viale Ortles a Milano. Una posizione, quella del Carroccio, in parte condivisa da Fratelli d'Italia. Su immigrazione ed euro con la Lega c'è una certa convergenza, dice Giorgia Meloni, anche se il nostro slogan è Voto Italiano, con una campagna improntata sul tricolore e sull'identità nazionale. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E chiudiamo la pagina politica con il punto di Stefano Folli e poi con una riflessione del nostro Dario Ceccarelli su questo contendersi Berlinguer. Il punto di Stefano Folli. Curioso come nell'era di internet e di Twitter, di cui tutti si dicono paladini, si svolga poi questa gara per stabilire chi ha riempito di più le piazze, come se una piazza piena fosse garanzia di successo elettorale. Non è così naturalmente, specie in un'elezione in cui l'affluenza rischia di essere molto bassa, come è avvenuto in Olanda, dove si è già votato. Meglio restare con i piedi per terra e preoccuparsi di cosa accadrà a partire da lunedì, quando lo scontro elettorale, con tutta la sua carica di intolleranza, dovrà lasciare spazio alla ragione. E il problema sarà come evitare che ancora una volta la vittima dei conflitti siano le riforme, perché in un'epoca in cui le risorse economiche da distribuire sono pressoché inesistenti, le riforme sono la vera azione del buon governo. Ma riformare richiede un clima di relativa concordia politica, una convergenza almeno sugli obiettivi, che si tratti della Costituzione o della legge elettorale. La cosa peggiore sarebbe rinunciare a tutto per proiettarsi già verso le successive elezioni. È questa campagna elettorale permanente che rischia di soffocare l'Italia. Berlinguer non è eletto, ignorante, Berlinguer ci vuole bene. Anch'io ti voglio bene a Berlinguer, ma il problema non è mio quello di fidanzarsi con Berlinguer, è quello di fare la rivoluzione. Chi si fa? Quei felici. Chi si fa? L'unica cosa che dovrebbe fare Berlinguer è quella di darci via, basta, lui. Siamo noi gli eredi di Berlinguer. Oltre agli insulti e alle minacce, questa isterica campagna elettorale ha aggiunto un altro carico: l'aggrapparsi a Berlinguer, come se evocarlo garantisse il marchio di qualità. Ma non se ne può più. Da un po' Berlinguer è diventato un santino che perfino la destra, per non parlare di Grillo, tiene sul proprio comodino per screditare chiunque proponga qualcosa di nuovo. È già Berlinguer, lui sì che era onesto, lui sì che era giusto, lui sì che era di sinistra. E lo dice gente che magari 30 anni fa lo considerava un ferro vecchio del comunismo, uno stucchevole moralista. Ma lasciamolo tranquillo, questo grande vecchio pieno di dignità, che ha sempre preferito fare un passo indietro che uno avanti. Berlinguer è stata una bandiera dell'onestà, ma anche, per colpa degli eredi, il simbolo di una cocciuta ostinazione a rimanere immobili. Berlinguer è stato un grande, ma un grande coi limiti del suo tempo. Ai nonni si vuole bene, ma al futuro ci devono pensare i nipoti. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Così dunque chiudiamo questa pagina politica che però tiene dentro in parte anche le questioni di politica economica e in particolare di bonus mobili e di Tasi. Parleremo tra un attimo, prima però vogliamo dalla nostra Valeria De Rosa un quadro sui dati Istat arrivati questa mattina che non sono per nulla buoni. Buongiorno Simone, a te e agli ascoltatori. No, non sono buoni, però lo dicevi anche tu nei titoli, giustamente, proprio il dato relativo alle vendite al dettaglio risente molto del fattore Pasqua. E allora intanto vediamo i numeri. Le vendite comunque scendono, in calo a marzo del 3,5% su base annua, per gli alimentari un vero e proprio tonfo del 6,8%, un calo fin qui mai registrato, però appunto il confronto annuo risente della Pasqua caduta quest'anno ad aprile, mentre l'anno scorso è caduta il 31 di marzo, e quindi tutti gli acquisti, soprattutto quelli relativi alla tavola in particolare, sono stati fatti nei giorni immediatamente precedenti. In ogni caso, al di là di questo confronto anno su anno, su cui, come abbiamo visto, ha influito la Pasqua, le vendite in generale non sono andate bene. Mese su mese la flessione è stata dello 0,2%, risultato di una diminuzione per il comparto alimentare dello 0,4% e di uno stallo generalizzato a tutto il resto dei settori, e questo per quel che riguarda le vendite. Per quanto riguarda invece le retribuzioni, dato anche questo di oggi, nel mese di aprile l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie rimane invariato rispetto al mese precedente e aumenta dell'1,2% nei confronti di aprile di un anno fa. La crescita annua tra l'altro più bassa da quando esistono le serie storiche, quindi questo ci dimostra che la crisi morde ancora. Allora, Valeria, io ti ringrazio intanto per questo aggiornamento sui dati, e prima di andare appunto alle questioni che riguardano la TASI e il bonus mobili, siamo riusciti a raggiungere Francesco Saverio Nisio, che è nostro ambasciatore a Bangkok, cioè nostro non di Radio 24 naturalmente, ma italiano. Buongiorno ambasciatore. Buongiorno a lei. E ben ritrovato. Allora, perché l'abbiamo sentita già due giorni fa, vorrei capire qual è la situazione, perché a questo punto lo sappiamo, il colpo di Stato c'è effettivamente, l'esercito ha impedito l'espatrio a 155 esponenti politici. Vorrei capire da lei qual è la situazione e che aria si respira. Allora, la situazione è che le forze di sicurezza, cioè forze armate e polizia, hanno preso il potere e sono sotto il comando del capo dell'esercito, che ha dichiarato una serie di ordini per regolamentare la vita in questo specifico momento, che sono tutti ordini di buon funzionamento, quindi i termini entro i quali ci si può spostare, il coprifuoco, gli orari, come funziona, come non funziona, ma devo dire tutto in maniera almeno apparentemente coordinata e pacata. Le persone di cui lei faceva riferimento, i 150 membri che non possono lasciare il paese, sono persone appartenenti ad alcuni partiti politici, che sono quelli che hanno per lungo tempo negoziato senza riuscirci una soluzione politica a questo conflitto interno, e che in questo momento non debbono lasciare il paese fino a quando non avranno terminato le loro interrogazioni da parte delle forze al potere. L'attività pubblica è normale, l'attività degli uffici pubblici è assolutamente normale, è stata dichiarata tale anche dalle televisioni, che naturalmente in questo momento trasmettono solo canali militari e quindi informazioni utili al pubblico. E brevemente, ambasciatore, abbiamo letto 10.000 gli italiani residenti in Thailandia. Se ci conferma questa cifra e se ci dice se possono stare tranquilli, e per chi ha programmato viaggi in Thailandia che cosa deve fare? Guardi, gli italiani residenti in Thailandia, quelli iscritti nell'apposito elenco degli italiani residenti all'estero, sono 4.004. Poi ce ne sono un certo numero che approssimativamente dovrebbe essere intorno ai 5.000, che sono quelli che per vari motivi vanno e vengono e non sono iscritti in AIRE, ma che comunque possono essere in Thailandia. Turisti in questo momento ce ne sono pochi, perché la stagione è pessima, e la situazione è tale che uno dei primi pensieri delle forze che hanno preso il potere è stato quello di tranquillizzare gli stranieri, dicendo loro che è soltanto una questione di ordine pubblico. Come già le ho detto l'altra volta, non c'è nessuna connotazione xenofoba nei confronti di stranieri. Naturalmente bisogna stare attenti, il coprifuoco impone degli orari, impone delle attenzioni, i turisti spesso vanno a farsi fotografie accanto ai militari, ecco, quelle sono atteggiamenti che vanno accuratamente evitati. Per il resto tutto sembra funzionare secondo un business as usual. La ringrazio, grazie all'ambasciatore Francesco Saverio Nisio, ambasciatore a Bangkok, per essere stato con noi. E veniamo dunque alle questioni fiscali. In studio con me tanto Cristiano Dell'Osta, che tra un attimo ci parlerà di bonus mobili, però l'uomo della TASI Gianni Trovati è anche qua. Gianni, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, a che punto siamo con queste benedette delibere dei comuni? Allora, vanno avanti abbastanza velocemente, il Ministero delle Finanze ne pubblica un 150-200 al giorno. Oggi è l'ultimo giorno entro il quale i comuni possono deliberare aliquote che siano valide per l'acconto del 16 giugno, ma il quadro definitivo ce lo avremo entro il 31 maggio, perché oltre a essere deliberate entro oggi, le decisioni locali per essere efficaci sull'acconto devono essere pubblicate dal censimento ministeriale delle finanze entro il 31 maggio. Nel frattempo il governo ieri ha deciso di prorogare la proroga, cioè di non decidere, perché probabilmente ha valutato che meno si parla, meno il governo parla di Tasi, meglio è, prima delle elezioni, quindi probabilmente la decisione verrà presa settimana prossima. Grazie a Gianni Trovati. Allora, Cristiano Dell'Osta, io intanto ti saluto e buongiorno. Buongiorno. Sei in attesa qua da un po', però ti devo far aspettare ancora un paio di minuti, il tempo del traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Meno di 12 ore alla fine della campagna elettorale, alla mezzanotte scatta il silenzio. Renzi sta parlando da Palazzo Chigi, Grillo, Berlusconi e lo stesso Presidente del Consiglio tornano a scontrarsi. Un colpo di Stato in Thailandia, l'esercito impedisce l'espatrio a 155 esponenti politici, oscurate gran parte delle TV, nel paese vivono 9.000 italiani, lo avete sentito poco fa dall'ambasciatore. Giorno del ricordo di Giovanni Falcone a 22 anni dalla strage. Napolitano dice fermare i condizionamenti della mafia sugli affari. Tra poco ospite il procuratore nazionale antimafia. Meno 6,8% per i consumi alimentari in marzo, ma l'anno scorso c'era la Pasqua. Si spera per una maggior crescita del PIL nei nuovi metodi di calcolo che comprendono l'economia illegale, ma quanto valgono effettivamente sul PIL lo chiederemo ad un economista. Due risposte ad ascoltatori. Il primo che ci chiede se ci sono dettagli sulle detrazioni per quanto riguarda la Tasi e ci dice non si capisce nulla. Effettivamente è molto difficile capirci qualcosa, soprattutto in questa fase, per tutti quanti, credo. E a Giovanni, che chiede come mai non sono in edicola parecchi quotidiani, Sole 24 Ore compreso, diciamo che c'era ieri lo sciopero dei poligrafici e per questo i giornali non sono in edicola. C'è ampio spazio anche a questi temi sul web. Così come c'è un pezzo di Cristiano Dell'Oste, che lo ripeto in studio con noi, sul tema del bonus mobili. Ci spieghi, Cristiano, alla fine come funziona, visto che c'è la circolare dell'Agenzia delle Entrate? Eh sì, perché ormai mancano meno di 10 giorni alla presentazione del modello 730 e le regole sono state ritoccate fino all'ultimo. Allora, diciamo che la conversione del decreto casa ha chiarito definitivamente che la spesa massima per chi acquista mobili e grandi elettrodomestici è di 10.000 euro e non deve necessariamente essere, diciamo, può anche essere superiore a quella per i lavori di ristrutturazione. Quindi se io spendo ad esempio 5.000 euro per rifare il bagno di casa, posso comprare mobili anche per arredare altre stanze fino a un massimo di 10.000 euro. Poi altre piccole cose che sono state chiarite: l'acquisto può essere documentato anche con uno scontrino, non serve necessariamente la fattura, il pagamento può essere fatto con bonifico, diciamo, parlante, quindi il bonifico tipico delle ristrutturazioni edilizie, ma anche, e questa è una bella semplificazione, con bancomat o carte di credito. Resta il problema di fondo, su questo il fisco non è stato molto chiaro, e cioè a quali lavori edilizi io posso abbinare il bonus mobili? Allora, ancora nella circolare dell'altro ieri, le entrate ribadiscono che i lavori devono essere almeno di manutenzione straordinaria. Cosa voglia dire? Però deve stabilirselo caso per caso il contribuente. Quindi non c'è dubbio che se io sto spostando delle pareti interne è una manutenzione straordinaria, non c'è dubbio che se rifaccio il bagno è una manutenzione straordinaria nel momento in cui cambio anche le tubature. Se sto cambiando soltanto una serratura, ecco, questa non è una manutenzione straordinaria. Poi ci sono anche dei casi limite: chi per esempio installa una cassaforte a muro, ecco, quello è abbastanza difficile farlo passare come manutenzione straordinaria. Se però per esempio installo un impianto di allarme e vado a fare dei lavori che sono anche lavori di impiantistica elettrica e intervengo anche sulle tracce murarie, allora quella è un lavoro che mi dà diritto al bonus mobili. La situazione è abbastanza intricata. È intricata questa, come è intricata quella della Tasi. Io vi rimando per tutti i chiarimenti tanto al sito del Sole 24 Ore quanto naturalmente al Sole 24 Ore, che domani tornerà in edicola, no Cristiano? Sicuramente tornerà in edicola e tornerà anche su questi temi. problemi. Naturalmente. Mario De Aglio, buongiorno. Buongiorno. Mario De Aglio è ordinario di economia internazionale alla Facoltà di Economia dell'Università di Torino, editorialista della Stampa. Professore, ci aiuti a capire quanto può valere l'inserimento dell'economia illegale all'interno, insomma, dei nostri conti, per così dire, sul nostro prodotto interno lordo, cioè la notizia di ieri, ci adeguiamo al resto d'Europa, prostituzione, traffico di droga, contrabbando entrano, insomma, nel calcolo nei nostri conti nazionali, quanto può valere? Ma è difficile fare delle stime che non siano approssimative, tuttavia il campo di variazione non è molto grande, molti anni fa avevo stimato intorno al 4%, sicuramente aumentata, oggi si parla del 5,5-6%, quindi un aumento del 50% insomma della quota, quindi un aumento molto notevole, maggiore proprio l'aumento del PIL. Più o meno questo è coerente con quello che sappiamo di altri paesi, coerente con le statistiche delle Nazioni Unite che valutano il commercio della droga, e quindi insomma più o meno la stima è quella. Senta professore, ma una domanda, perché è quello che probabilmente si stanno chiedendo tutti in questo momento, ma è corretto inserire questi elementi all'interno delle statistiche sul prodotto interno lordo, non solo da un punto di vista, se vogliamo, morale, ma è anche questa la domanda che si fanno le persone, ma dall'altra parte proprio da un punto di vista statistico, perché come diceva lei, queste sono stime assolutamente approssimative, essendo economia illegale per definizione non sappiamo quanto vale. Ma su questo non sarei troppo d'accordo, in quanto alla correttezza bisogna distinguere, deve trattarsi di attività organizzate in cui le due parti sono consenzienti, quindi tipicamente droga e prostituzione, e poi ci può essere qualche altra cosa, insomma, sempre in quest'ottica, sicuramente non il pizzo, sicuramente non le cose in cui uno porta via ad altri, non le rapine, non questa roba qui, ma invece laddove c'è un mercato che avrebbe le caratteristiche di un mercato legale se venisse dichiarato tale, in alcuni paesi in parte lo è, allora perché non inserirlo? È un'attività alla quale si dedicano molte persone. Saremo avvantaggiati, professore, rispetto a paesi come per esempio l'Olanda, dove la prostituzione e il traffico di droga sono almeno parzialmente legali. Avvantaggiati non lo so, perché credo che dalla classificazione Eurostat sia uniforme, e quindi finora gli olandesi non l'hanno considerato così come non l'abbiamo considerato noi. Grazie al professor Mario De Aglio, professore di economia internazionale alla facoltà di economia, naturalmente, all'Università di Torino, ed editorialista della Stampa. Le auguro buona giornata e saluto invece il collega del Sole 24 Ore, Nino Amadore da Palermo. Buongiorno Nino. Buongiorno a tutti. Stai seguendo le celebrazioni, ricordo, i 22 anni dalla strage di Capaci. Ci racconti qualcosa, perché abbiamo letto anche delle parole molto dure di Alfredo Morvillo, che è procuratore di Termini Imerese, ma soprattutto fratello di Francesca Morvillo, la moglie di Falcone, che dice: volete che parli? Prendete le dichiarazioni dell'anno scorso, credo che questa sia la solita passerella per tante persone. Dici un po' come sono le cose. Due cose, io in questo momento sono a Palazzo di Giustizia a seguire un intervento di Marcel Padovani, sta raccontando come è nata l'idea di scrivere il libro con Falcone, sta raccontando della sua amicizia con Falcone, una manifestazione organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati, è stato sottolineato che è una manifestazione semplice, che non vuole essere una parata e che non deve esserlo, quasi in polemica con tutto quello che accade oggi in città, e la città come sempre il 23 maggio c'è una manifestazione all'Aula Bunker, c'è una cosa in Piazza Politea, ma ci saranno poi due cortei nel pomeriggio e il ricordo davanti all'Albero Falcone. L'impressione, la sensazione che sia anche un po' una parata in effetti esiste, c'è, anche se poi viene sottolineato l'aspetto del ricordo, la memoria, tutto ciò che serve a comunicare la presenza dello Stato. C'è qui il ministro c'è il Presidente del Senato, Piero Grasso, c'è il Ministro della Giustizia, ci sono gli altri ministri, a Giannini e così via. Dunque Morvillo mette l'accento polemicamente su una questione che è una questione sostanzialmente avvertita da molti. Questo è il quadro. Poi ci sono le questioni, e le questioni sono sempre quelle, come ha ribadito il Presidente del Senato, ha ripetuto il Ministro della Giustizia. Qui c'è da mettere mano, da portare la legislazione antimafia italiana in Europa, c'è da sistemare con la nostra, c'è da insistere su alcune questioni. Questo è il modo migliore per ricordare Giovanni Falcone e gli altri che sono morti. Grazie a Nino Amadore, intanto, che torneremo a sentire nel corso della giornata. Ci sono gli aggiornamenti sull'inchiesta che riguarda Carige. Nell'ordinanza di custodia cautelare il GIP Adriana Petri descrive la personalità di Giovanni Berneschi, 77 anni, vicepresidente di ABI e fino al settembre scorso padre padrone di Carige. Uomo di carisma e grande potere, in grado, scrive il giudice, di reiterare reati analoghi, rivestendo tuttora, si legge, numerose delle cariche societarie che ha piegato ai suoi fini attraverso connivenze tutte da scoprire anche nei tribunali, con un avvocato che lo teneva informato dell'eventuale sua iscrizione sul registro degli indagati. Di qui la possibilità di inquinare le indagini in uno scenario definito inquietante, ma soprattutto uomo capace di centrifugare denaro ben oltre i 22 milioni sequestrati ieri e distratti, secondo l'accusa, dalle casse del ramo assicurativo della banca. Secondo il giudice, infatti, Berneschi disporrebbe di ingenti capitali all'estero ancora da rimpatriare, e all'estero, in Svizzera, a Lugano, sarebbe stato pronto a trasferirsi, come emerge dalle ultime intercettazioni. Alle dipendenze di Berneschi un comitato d'affari del quale facevano parte gli altri sei arrestati di ieri, tra i quali l'ex AD del ramo assicurativo della banca Ferdinando Menconi, e probabilmente non solo loro. Le indagini della finanza proseguono. Da stamane si scava nella miniera di dati, file e archivi cartacei scoperta nel corso delle perquisizioni di ieri. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Dal dicembre del 99 l'UNESCO ha dichiarato Villa Adriana, e siamo a Tivoli, per chi non la conoscesse ci andasse, patrimonio dell'umanità, ma il mantenimento è vincolato a certi requisiti che vengono verificati periodicamente dai responsabili delle Nazioni Unite. Ora, la cosiddetta lottizzazione Nathan, un complesso edilizio da 191.000 metri cubi progettato dall'architetto Paolo Portoghesi, a poca distanza dall'area archeologica, il cui impatto tra l'altro è stato bocciato dal Ministero dei Beni Culturali, rischia di far cancellare Villa Adriana dalla lista dei siti dell'UNESCO. Adriana Fracchi ha intervistato il presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, Giovanni Puglisi. Sentiamo. Beh, io mi auguro che il nostro paese, le autorità competenti, abbiano il coraggio di essere conseguenti alla valutazione del MIBAC e bloccare la costruzione in Fieri, perché altrimenti credo che questo poi in un tempo breve medio avrebbe conseguenze anche sul sito UNESCO. Non è una procedura assolutamente semplice, è una procedura lunghissima. E nemmeno auspicabile, immagino. No, questo mi auguro di no, perché secondo me non riuscire ad aver iscritto un sito non è vergogna, avere cancellato un sito dalla lista è una vergogna inaccettabile. Ma poi Villa Adriana, ma di che cosa parliamo? Ma di che cosa parliamo? Veramente mi sento un marziano in questo paese. Proprio il giorno in cui si parla del decreto cultura fatto da Franceschini per far sostenere attraverso defiscalizzazione anche di privati il restauro dei beni culturali, noi parliamo della cancellazione di Villa Adriana dalle liste dell'UNESCO. Cioè, ma veramente, io non so cosa sia la contraddizione, se questa non è un esempio emblematico di contraddizione in termini. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il Tribunale di Taranto ha condannato 28 ex dirigenti dell'ILVA per le morti causate dall'amianto e altri cancerogeni provenienti dallo stabilimento siderurgico. È notizia di poco fa. Parla Renzi, sul fisco dice entro giovedì il progetto di delega e entro giugno online tutte le spese del governo. Per quanto riguarda le riforme, la prossima settimana, aggiunge, si torna al Senato. Sono gli ultimi colpi di campagna elettorale ed è di nuovo scontro naturalmente tra lo stesso Renzi e Grillo, insieme a Berlusconi, che dice disordini se il Movimento 5 Stelle diventa il primo partito. Il colpo di Stato in Thailandia, l'esercito impedisce l'espatrio, 155 esponenti politici oscurate, gran parte delle TV. È il momento della borsa. Borse in diretta. Allora, siamo in linea con i colleghi di Radio Cor, il Sole 24 Ore, ma oggi non mi hanno detto chi c'è. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ciao, Isabella Tasso. Ciao Isabella. Allora, la giornata è positiva, un più 0,84% sul FTSE MIB, un più 0,79% sul FTSE All Share. Come mai andiamo? Tra l'altro andiamo meglio del resto d'Europa. Sì, Piazza Affari va meglio delle altre borse europee che sono poco sopra la parità, in parte recupera le perdite registrate ieri, questo soprattutto grazie a un buon andamento del settore bancario. Resta comunque cautela in attesa di conoscere l'esito delle elezioni europee di domenica prossima, ma dicevamo il settore bancario rimbalza appunto dopo la seduta negativa di ieri, complice anche lo spread in discesa a 181 punti. Sul settore agisce positivamente anche una nota di Morgan Stanley che evidenzia l'impatto positivo che potrebbe avere un rafforzamento delle misure espansive della Banca Centrale Europea sugli istituti italiani. E così è in evidenza Popolare Emilia più 4%, Monte dei Paschi più 3%, Popolare di Milano che oggi chiude l'aumento di capitale sale del 2,3%. E anche Unipol 6 recupera qualcosa, come si diceva, più 3,78%. Isabella, grazie, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il Papa partirà domani per il suo pellegrinaggio in Terra Santa sulle orme di Paolo VI, un viaggio che molti sperano possa dare nuovo slancio anche al dialogo tra israeliani e palestinesi, rilanciare l'unità dei cristiani. Sentiamo padre Ibrahim Faltas, che è diventato famoso suo malgrado per aver trascorso 39 giorni nella Basilica della Natività sotto assedio e oggi è icono della custodia di Terra Santa a Gerusalemme. Lo ha intervistato Katia Caramelli. Stiamo lavorando come custodia, come chiesa locale per la messa a Betlemme, anche qui per la visita al sepolcro, anche al cenacolo, al Getsemani, e stiamo facendo il nostro meglio per far riuscire questa visita bene. Sapete che dobbiamo lavorare anche con gli altri riti, con i greci, con gli armeni, con tutto, soprattutto per la visita del Santo Sepolcro. C'è un bel clima tra di noi, la situazione sta andando abbastanza bene. Che frutti vi aspettate da questa visita? Speriamo che serve questa visita anche che ritornano al dialogo palestinese-israeliani, è questo che penso che tutti aspettano, questo dal Papa Francesco, che lui riesce a fare qualcosa tra palestinesi-israeliani. Intanto avrà un incontro con tutta l'autorità palestinese, anche israeliana. Ed è il momento, come sempre di venerdì, di Daniele Biacchissi. Il premier Matteo Renzi aveva annunciato un'operazione di trasparenza sulle cosiddette carte della memoria, quelle che riguardano numerose pagine oscure della storia contemporanea italiana. Sono documenti oggi desecretati che riguardano il periodo della cosiddetta strategia della tensione, dal 69 al 1980, cioè dalla strage di Piazza Fontana all'eccidio alla stazione di Bologna, passando per gli attentati alla questura di Milano, Piazza della Loggia, Italicus. La prima desecretazione però riguarda un duplice omicidio avvenuto in epoca più vicina. Si tratta delle carte sull'assassinio dell'inviata del TG3 in Somalia, Ilaria Alpi, e del giornalista operatore Miran Hrovatin, colpiti a morte da un commando il 20 marzo del 94 a Mogadiscio. Su quell'agguato molto è stato scritto. Di certo è che i due giornalisti sono stati uccisi perché stavano realizzando un'inchiesta sui traffici illegali, partite di armi e di rifiuti tossiconocivi trasportati da navi della cooperazione italiana con la Somalia. Da oggi, entrando nel sito della Camera e compilando un semplice modulo, si potranno ottenere via email le copie digitali di queste carte. Ci sono le informative del SISDE messe agli atti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta fatte circolare il 7 maggio del 94, poco dopo la morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Si possono leggere altre riservate dei servizi civili precedenti l'esecuzione. Sono anche consultabili i documenti dell'ultima Commissione bicamerale di inchiesta inchiesta sui rifiuti presieduta da Gaetano Pecorella. In alcuni dossier del Sismi vengono delineati i rapporti tra il collaboratore di giustizia Francesco Fonti, il pentito di 'Ndrangheta che aveva raccontato di aver affondato almeno 3 navi cariche di rifiuti al largo delle coste calabresi, e i servizi segreti. Infine, da oggi diventano pubblici i fascicoli che riguardano le navi Zanobia, Jolly Rosso, Rigel, navi legate ai traffici di rifiuti tossici tra Italia, Africa e America Latina negli anni 80 e 90. Non sarà certamente la verità provata, ma 200 documenti da oggi consultabili sul sito della Camera offrono uno spaccato di come funzionava la guerra in Somalia, di quali pericolose relazioni tra governi, gruppi criminali, faccendieri, servizi segreti era popolata la capitale somala Mogadiscio intorno al 1994. Una risposta all'ascoltatore che ci scrive che facciamo disinformazione parlando del voto in Olanda, e se il 63% non vota questo è un segnale di Europa lontana e non di calo degli euroscettici. Una risposta che non ha valenza politica ma si basa sui numeri è che nelle scorse elezioni europee nel 2009 il numero, la percentuale di olandesi che andarono al voto fu addirittura inferiore, anche se di poco, dello 0,3%, quindi evidentemente è una costante olandese e non ha nulla a che fare con il sentire l'Europa lontana o meno, posto che probabilmente anche molti olandesi la sentono così. Parliamo di falsi invalidi. Adesso 26 persone sono state arrestate dalla Procura di Napoli per aver appunto falsificato verbali di accertamento di invalidità che gli hanno permesso di percepire pensioni immeritate. Il capitano Stefano Tosi, comandante della compagnia Napoli Centro, carabinieri naturalmente, al microfono di Erika Magnello. Queste persone, tramite l'utilizzo di verbali di accertamento di invalidità dell'ASL, ovviamente falsificati, sono riuscite ad indurre in errore pubblici funzionari, determinando in tal modo, ovviamente a loro favore, da parte dell'INPS, di pensioni di invalidità e relativi arretrati. Dove sta l'origine della truffa? Nelle ASL o negli uffici comunali? Nelle ASL, nel senso che sono riusciti a falsificare i verbali di accertamento, modificando poi il nome e sostituendosi a invalidità di più o meno esistenti. Chi è che avrebbe dovuto verificare la validità dei certificati? In realtà le persone deputate al controllo non potevano in alcun modo evidenziare l'eventuale falsificazione dei verbali, perché in diverse circostanze i falsi sono stati convocati ma non si sono mai presentati alle visite di controllo. Non è la prima volta che accade un fatto del genere, c'è qualche aspetto particolare nel caso di oggi? In un caso addirittura un falso invalido non era nemmeno a conoscenza della patologia di cui doveva invece essere affetto. Qualche aggiornamento che sta arrivando proprio in questi minuti, sono soprattutto dichiarazioni dall'Ucraina, e riguarda le parole del presidente russo Vladimir Putin, il quale dice che in Ucraina è in corso una guerra civile senza quartiere. Lo fa dal forum economico di San Pietroburgo, dove avverte che eventuali sanzioni occidentali contro la Russia per la crisi ucraina avranno un effetto boomerang sui paesi che le impongono. La cronaca ci racconta che ci sono morti e moltissimi feriti da quel che riferiscono i leader dei gruppi nazionalisti a Karlivka, scusate, vicino a Donetsk, in scontri tra i paramilitari pro-Kiev e i separatisti filorussi. Queste le notizie che arrivano dall'Ucraina. Noi ci fermiamo, adesso il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Prima di sentire America 24, una piccola precisazione, perché nei nostri titoli vi avevamo detto che avremmo sentito il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti e non siamo riusciti a raggiungerlo. Probabilmente è dentro l'aula bunker con tutte le altre autorità per le celebrazioni a 22 anni dalla strage di Capace, quindi insomma non siamo riusciti a raggiungerlo nonostante ci avesse dato un sostanziale ok, comunque comprensibile e perdonato. Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Да, я считаю, что